utilizzando tu sicuramente a troppi watt, capito? Quindi se tu gli dai troppo ingresso rischi anche di bruciarli, credo. No, no, no, infatti non gli sto dando niente, l'ho sempre lasciato così e non lo tocco mai. Da quando l'ho preso l'ho sempre lasciato così. Addirittura oggi ne stavo provando un'altra con un altro lineare, molto ma molto più piccolo. Cazzo, niente da fare, non sono riuscito a uscire. Lo attaccavo, mi pare che se l'ho montato in macchina adesso, sì, ce l'ho tuttora in macchina. Non riesco a uscire adesso. Vabbè, ma non si può abbassare il watt che dice la radio. Vabbè, sono radio fatte così, sono radio vecchie, nuove vecchie sono. Non lo so. Gianni, doppio room, sparito, vai Claro, riprendi. Ahia, chi voleva entrare sopra Giovanni? Non ho capito niente, ti uscendo male. Dove sei in FM? Sì, in FM, passa in M. Non so chi è. Io non lo sento, è Claro. No, qua è 9:10, però sto uscendo male, chi è? Deve essere Franco California sicuramente. Stai uscendo un bel male, Franco, eh. Tutto starato, sì, tutto fuori frequenza, buco, fuori frequenza o in FM, non lo so. Vai, vai, ma ci metti a ripetere. No, vabbè, no, non c'è problema, là, se stanno provando. Io 9:10 da te qua me ne, non mi muovo manco l'ago. C'ho un po' di QRM a Santiago 2-3, però. E va bene, là. E questo lineare in vendita ce l'hai o tu lo devi tenere oggi qua? No, lo voglio tenere, che prima o poi lo voglio abbinare a qualcosa. E poi lo voglio anche un po' vedere se riesco più avanti a sollevarvi ancora un paio di metri di antenna. Da voi a me passa la fantasia, no? E più di tanto non me la faccio nulla. Ehi, vabbè, già è un bel linearetto quello, là. Dipende, che antenna usi, una Ringo? No, è una Sirio, una 580 GPS. Ah, e allora già lo tiene bene, là. Va bene, qua arrivi bene, eh. Io ti ascolto 9:10, ma sei agganciato adesso, giusto? Li dovrei cambiare, per sentire un po' meglio li dovrei cambiare il microfono, è un microfono normale, non c'è da nulla il microfono. Ma se tu ti buschi una bella radio base così, ma non esiste un Galaxy, una cosa così, che la colli così a 220, ti metti quel 2002 al vicino, da buoni con 2 watt, attacchi a Edo e sei accavato. Sì, se no la radio bella, solo che no, non mi interessa, non sono un appassionato, non so di questa passione come voi, capito? Ce l'ho un bel CTR, se metto quella esco molto, molto bene, ecco, però non mi interessa niente, sono una radio vecchia, la battaglia, di alcuni, no, che sono sotto una veranda, non ti credere, l'ho buttata lì e basta, ti la piglia in culo. Ah, ok, là. Va bene, ok, no, va bene, no. La passione quando c'è, cioè per stare così buttato sotto la veranda, no, dai. Va bene, avanti, Claudio. Ehi, ma intanto io sento qualcuno che prova, però stai uscendo molto, molto male. Non so, non lo so, ciò chi è. Io non lo sento. Giovanni, tu senti qualcosa? Per il momento non ho sentito. Se è Franco non l'ho proprio sentito io ancora. Allora, io su Blecco l'ho sentito, avanti, chi è? Ah, il compagnero, roba così. Ciao Polonia, qui è la Sardegna. Sì, adesso l'ho sentito, cazzo. Sei un polacco. Un polacco. Va bene, va bene. No, comunque tieni, no, che qua è oltre 9, Giovanni. Però io l'ho già sentito altre volte con quell'altra radio che sta dicendo, esce un bel bene. Esci molto bene con l'altra, Giovanni. Sì, Claudio, l'ultima volta mi hai detto che questo ti piaceva molto e ti ho ascoltato. L'unica cosa è che ho cambiato il microfono, però ti ho ascoltato, mi hai detto mi piace molto questa radio, allora Lucia non tocca nulla, Lucia Giovanni. L'unica cosa che ho cambiato è il microfono, del microfono l'ho messo nella vettura. Sì, sì, esci molto bene, va bene, Giovanni. Lascia stare così, basta che ci sentiamo, va bene, no, ma lascia perdere a me, io sono radioamatore, uso delle radio un po' particolari in 27, capito? Quando mi senti col beep sto usando il Galaxy Saturn Echo, ma quel Galaxy c'ha 100 watt, capito? Se no adesso sto usando il Kenwood del TS-140. Io uso sempre questi tipi di radio, no? Baracchini ne ho, ma no, non mi piace trattarli, capito? Quindi è un altro tipo di passione, Giovanni. Io per forza devo devo avere questo radio. Vai, ma ci vediamo. Eia, cos'è? Quello del mare o quello della montagna, questo? Questo è quello della montagna. Questo è quello della montagna. Quello che è stato tutto revisionato, tutto revisionato. La scheda, insomma. Ma è a posto. Mi esce veramente molto bene. Un attimo di bianco da parte mia, un attimo. Eia, va bene, io va. Vediamo un po', Gianni, ma ci sei, ho caduto, sì, cosa c'è, sei per sé, 36? Sì, non lo so, ho la chiamato Franco, stanno in qualche altro canale provando la radio, ma c'era Franco, il segnale era il suo, però era tutto fuori frequenza, pari NFM. Sì, a chi vive, noi sono a Gialluzzare, no, stanno già meglio finali per la fase corsi. Io queste cose non le faccio perché non sono all'altezza di farlo. Chi si reputa all'altezza le faccia, però bisogna stare molto attenti perché puoi fare molto danno se non c'è la strumentazione adatta. Tutto qua. Io te l'ho spiegato cosa ho fatto. Quindi l'ho data a chi la doveva volare, e ha ripreso tutte le saldature, il circuito stampato, piano piano, tutta pulita, io sono smontata e ripiazzata e siamo qua. Va bene, ma tu l'hai dato a una persona competente, cioè, che ha le attrezzature giuste, va bene, capito? No, io lo stesso, io non ridocco mai roba di finali, cose così, non io conosco giusto i trimmer, se mi devo regolare lo Smith, ma dei Galaxy, cose così, se mi devo aumentare appena appena la radio o appena appena il watt, finisci lì. Sì, manca la regolazione di Smith, quando si vanno a toccare le distanze variabili, non è così che funziona, questo me l'ha proprio spiegato lui. Ad esempio il mio, la distanza variabile è al suo posto, è al massimo, però lo Smith non sale più di quel tanto, quindi c'è sicuramente qualche componente in perdita che va rivisto, ma io non ci duca nulla. Ci arriva nei usci, non me ne fotti nulla, lo già assolutamente. Kappa, ehi, anda bene, ehi, vabbè, l'importante è partecipare, come si dice, no? Ecco, va bene. Avanti Giovanni. Beh, migliorato un po' il segnale, ho cambiato radio. La giorno alla notte. Oltre che la radio, ma c'è Gumba, chissà. Lo so, però questa la tengo dentro casa, capito? Quest'altra invece che stavo usando, ce l'ho fuori in una baracca, dove mi siedo, c'ho il tavolo, le sedie e faccio le rimote qua, capito? Non è che me ne accudo mio di tanto. Provo a aumentare un'altra attacca, a me vorrei a due. Uno, due, tre, provano. Prova a mettere a tre. Uno, due, tre, prova. Oh, il segnale non sta cambiando, vai a quattro. È meglio là, poi a quattro, vedi. Uno, due, tre, prova. Non sia a 4, si è abbasciato dove? 1, 2, 3. Allora così sei 9 più 20, cosa sei qua? Terza, quarta, seconda, com'è? È buio, cazzo, è dentro un armadio, non ci vedo un cazzo, non ci vedo. E vabbè, se tu la manopola la porti a 0, no? E il primo scatto, da voi i gonti a 1 a 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nami, non ha di più, eh? 4 scatti. No, qua aumenta Massimiliano, prova, metti il segnale. 1, 2, 3, prova, 4 scatti. Se sei 9-10 abbondante, cazzo. Poco fare 9, un poco più di 9. Ho paura di rompere, di rovinarmi questa radio, capito? Questa radio nuova. Beh, rimettila a 1, già ti sento lo stesso, però il segnale qua è salito, Massimiliano, sul K. Vabbè, io lo sto guardando sul Galaxy, da 9-20 non si è mosso. Quando l'ha portato a prima marcia fa 9-10 e poi da 9-20 non è salito. Qua da me, poi da te. Stai usando una radio diversa dalle mie, Claudia, lo usai. Ma già è salita, 9.10, 9.20 va bene, da me è salita 9.5, 9.9, danno segnale 9 a oltre 9 più 10, quindi già va bene. Ha voglia, ma lui è molto vicino a me anche, quindi in quarta marcia così, già qua deve arrivare 9.30 quasi. Rifaccio una prova. 9.20 sempre, sì, però sta iniziando a essere un po' saturino, abbassalo perché magari c'è troppo ingresso di fatto. Te l'ho detto, la radio non vanno bene queste radio. Ma va a spegnerlo del tutto invece. c'era quanto arrivi, Giovanni, con quella radio? Adesso l'ho messo a zero. Quindi adesso è staccato solo la radio. Santiago 8, sì, qua. Da te, clap. Prova, Giovanni. 1, 2, 3, prova, 9, 3, prova, 9, 3, prova. Santiago 8, uguale. Santiago 8 staccato e 9, 10, quasi 9 più 15 attaccato, va bene. Se deve mettere la prima marcia. Con la prima marcia, guarda, da 8 va a 9, 10. Già sale, là. E con la retromarcia? E con la retromarcia si chiude all'ulo, all'arbolo, anzi. A chi viso la platanola, viso arboli. Capra, buonasera. Buonasera a tutti. A me quando attacca mi arriva 9,20. Ma poi dalle prime marce alla quarta marcia ti cambia qualcosa? No, l'ho cambiato adesso la radio, stavo guardando, ma con l'altra non sono riuscito a vederlo. Vabbè, tenete conto, il tuo Massimiliano siete più favorevoli a lui. Però già aumenta anche qua, Ciao Fra, buonasera. Ciao Fra. Sì, ma ho già un grande incremento, però se non lineare come ha detto dovrebbe incrementare di più. Che io voglio entrare avanti. Come? No, sei tutto saturo, sei tutto sempre FM, ma chi sei? Se non mi dici manco chi sei, sembri in FM, sei tutto saturo. E spostati tu in FM, avrei solo sentito bene, Cla. E mi sono portato peggio ancora. Ah, ci vuol doppio. Ci vuol doppiareddo, ciu. Avanti, Giovanni. Quello che parlava prima, l'ultimo entrato, cazzo, arrivava proprio a fondo scala, è micidiale quel segnale. Davvero? Sì, perché favorevole a te, capito, però radio non hai tutta massegnata. Già, tutta massegnata. Ciao, Fra. Cosa bisogna fare a Gichung? Che attento mi vai a segnare a 9.50 e vai a tutta la radio massegnata. E allora, la radio massegnata va giù. A me da Franco, se no va pieno, radio Super 5 e truba il caldo. E allora, guarda che non è un radio che escono male, basta abbinarli per i cosi. Vero è, bulldozer. Vabbè, uno ci prova, se poi ci riesce è buono, se no pazienza. Fra, questo 140 io l'ho venduto 6 anni fa, me l'hanno riportato per cambiare la batteria a litio perché aveva perso le memorie. L'ho già mandato la batteria al viaggio d'ora, tutto memorizzato, era la mia, gli ho telefonato a venire a prendersela e invece toccato a ritirarmi da io, è giunto a pigliarsi di là, ed è nuova come il giorno che gliel'ho data, sempre. A me non sei contento. E io sono contento, la bui, tanto baciamà, un altro, capito? Un amico carissimo di Alghero, anche quella gliel'ho data 5-6 anni fa lo stesso, ancora imballata, dentro la scatola, me l'ha restituita a vendere ed è ancora qua, e sicuramente rimarrà qua, perché è nuova come il giorno che gliel'ho data, ma nuove, sono tutte e due fiammanti, per dirti, no, tornando ai discorsi vecchi, che le radio quando sono tenute bene, è una persona che ce l'ha, la usa bene e non la tocca, la radio funziona sempre. Se la compra già a posto, sì, ma se la piglia già un pezzo di garraggio, non è così, no? Ma glielo sai, io il garraggio non ha mai dato a nessuno, e quindi se io do roba buona e poi mi viene restituita come buona, io sono contento, se poi mi viene restituita come guasta è un'altra cosa, capito? Però che si possa bloccare un relè perché è usura, per una saldatura che non c'è più, tocca e non tocca, quello è materiale di consumo, quello si prende, come ho già fatto, rifate tutte le saldature della scheda della commutazione di banda, che sono tutti dei relè, sono 12 relè, tutti ripresi, una pulita retrolina, ripiazzata la radio come se si esce a casa. Vabbè, già le vieni quelle se le vuoi vendere, già sono commerciali queste. Va bene, avanti Giovanni. Dimmi se riesco a mettere un bimbo in questo caso di radio, cioè mi fa, ma non sono niente, assistente, spiegami. Ma cos'è la liscio? Un elicottero, Giovanni. Non è carica, appunto, abbassa l'eco. Aspetta che lo sto cercando. Abbassa. L'ho tolto del tutto. C'è ancora, cosa ha tolto del tutto? Chi viene, ragazzi? Che così vuol fare l'azione? C'è un po' di profondità. ecco. No, ma Giovanni, tutto l'hai ricollegato. Sì, adesso l'ho trovato, appena appena l'ho messo, dai, appena appena appena. Però c'è il bip, guarda se, se mi senti il bip. No, bip è per me, bip. Quale cazzo sarà il bip, ricca, vedi? C'è scritto bip. Altra volta ero riuscito a far metterlo, però... ah sì, forse adesso c'è? No. C'è come il mio, c'è scritto R, B, E, E, P. Cosa c'è scritto? Beh, cos'è? Beh. E ci dato mi la begola, e non la begola. Ma già arriva più rumo. Falato, te. Claudia, io riprende, facci la trottola. E io riprendo con la Galaxy Saturn. Mi senti, Giovanni? Ti sento bene, sto cercando il bip a questa radio, non la c'ho, barocco. E ti do pure io che na due. Andavano. Bene, va, ma si mi dà questo Saturnetto. Cazzo, non è mai più forte del K, che... Te l'ho detto cosa abbiamo fatto, no? Che cosa ha fatto? Va bene. Prova a fra vedere quanto mi arrivi col K, dimmi se ti arrivo bene. Ma col Saturnetto. Sì, quasi 7, sì. Quasi 7, radio 5, buona, leggermente più forte dell'altra, che stavo usando poco fa. Addirittura più forte del K. Col K ti arrivo più basso, ma questo sta dando 100 watt. Comunque mi arrivi così tu a me. Sto usando K io adesso, che con l'altra la radio, con la... a me non funziona bene lo smicker. Del Galaxy, anche tu lo stesso problema c'hai. Perché... mi sembra un po' basso, in confronto alla... qua è basso. E anch'io c'ho lo stesso problema, anch'io c'ho lo stesso problema, non segna bene. Però non conviene toccarlo, perché sicuramente c'è qualche cosa in perdita, come il mio, sulla parte del segnalatore dello smitter, capito? Tutto qua. Vabbè. KK, e ce l'ho a metà mi Massimilia al microfono, a metà è. Ma tu non c'avevi un Sadelta, perché non lo provi qua? Perché c'è una connessione diversa. Chi è che mi ha detto Claudio mi senti? Ma tu è che chiamavi poco fa? Carlo in bicicletta, cosa ti ha avuto? Guarda chi in bicicletta. Ah, e io credo che ti ascolto adesso che sia uso. Santiago Nuovo, Radio 5. Ma non esce bene di radio col portatile, Carlo. Sei tutto gracchiante, tutto matigato, sembri Brenton Caldaro. Lo sentite a Carlo in bicicletta? No, aspetta che l'ascolto in cuffia, vediamo un po'. Ma io di solito oggi non ascolto, ma lui lo tiro fuori. Non so se mi ascolta lui. Sì, che ti ascolta. L'hai sentito a Franco da Sorso, Carlo? Qua al terzo pettine negativo. Ehi, c'è l'antenna col gommino, no? Qua stai arrivando addirittura 9 più 10. Non l'ho mai visto così alto il segnale del Galaxy. 9 più 10, di solito arrivano tutti 9. Vabbè, se apri la Iana se la sotto i ghibi, by foot. Non lo so, dove sei Carlo esattamente? Sai dove abito io? Molto distante, sì. Ah, vedi il serbatoio, quindi sei sopra, dal Bunari stai scendendo tu, io sono sotto. 4-5 km da me, sì, dai, in linea d'aria. E allora è per quello. Se vedi il serbatoio vedi anche l'antenna fra un po'. Va bene, avanti Massimiliano. No, vabbè, dai, se mi ascolta, io a lui non lo ascolto, però lo saluto, però non so se mi ascolta, chiediglielo se mi stai ascoltando. Lo senti Massimiliano? Sì che ti sente Massimiliano, forte e chiaro. Ok, dai, vabbè, magari quando esce in bicicletta si prende un'antenna un po' più lunghetta, capito? Si può mettere quella, va bene, ok, allora buona pedalata a Carlo, io purtroppo non ti sento, va, avanti Giovanni, tu l'hai sentito? Ciao Carlo, no, non lo sento proprio, fammi sapere se mi sente a me. Dimmi, rubi per appunto. Allora. Non ti sente Giovanni, sente Massimiliano molto bene, prova tu fra. Ehi capo, vedi Carlo se mi riesci a tirarmi fuori, ma sicuramente mi tira fuori perché dalla radio l'ho già a passo. Ti sente forte e chiaro, siete voi che non sentite a lui, vi sente tutti, vi sente forte e chiaro tutti, capo. Ehi capo, Carlo mettici una mattoma uno con la bicicletta. Se no passerò che dirò un barretto un rigorri. povero di polo, così è. Allora, la manco tra l'altra. E allora, che è pittina, chi si ricosa un mi di buffalo andane bene? Chi si aggrappa, cuocuomane? Cuocuomane sei tu. Cappa, cappa, ciao Natali, buonasera, ben ascoltato. Hai capito, Carlo, ti do un elmetto, ne facciamo due furi e attacchi l'antenna, attacchi. E il dito all'orizzontale si mette. Cappa, cappa, va bene. E me, Tatalino, compagnia di Giovanni, Massimiliano, Franco Rassosso e Carletto barrato in bicicletta. Chi sta inteso? Sei sentiti tutti? E via tua moglie da occhio di rugali. Ciao, Natalino. Ciao Massimiliano, ma dimmi tu che ci gane proprio prepotente. Non c'è né premio! Niente premio, se non mangi la pappa niente premio. Ah, le devi dare un premio per mangiare. Filippo Bu, se non era mangiato ci mangia i rimotti. No, questo è il signor Riccardo Lugani, non è come te Filippo. Così è. Va bene, va bene. Avanti Giovanni, cambio. Ciao Natalino, buonasera, buonasera. Natali, sentito lei a Giovanni, Giovanni il stanco. No, non l'ho sentito. Scusate, ma sto facendo una cosa qua. Dove sei, Carlo? Attento alla strada, non sbagliami. Oh, ma Ruggicli si è apparendo a Sassari in bicicletta? Era oggi, l'ho passato avanti, infatti adesso si è arrivato fortissimo e poi sei calato. Deve essere che sei già dietro le curve lì e quindi sei calato di segnale. Boh, poi mi pieghi come ti fai a guidare, fammi da, non hai giù peso, comunque, va bene, vai Massimino. Io non lo sento ancora, E aspetta, quando sale sulla serra secca già lo senti sicuramente. Cappa cappa, va bene, dai. Già ne ho più rumore, si è perso. Oh, non so che è successo, se non ho chiamato, è dovuto uscire, è arrivata gente all'improvviso, gli è mancata la corrente, non lo so. E a te Massimiliano, quanto ti arriva con questo il segnale? 9 più 10. Quanto è l'altro, più basso? Ider, uguale, qua. Va bene, va bene. La radio è buona, sto usando l'MB più 5 Massimiliano. Cazzo, spingo a vedere, va una radio allucinante. Va bene, va bene. Avanti Franco. Capo, sì, come radio è bella forte, è bella prepotente. Stai usando l'MB più 5 in quella radio? Sì, l'MB più 5 è originale, senso di originale, tolto dalla scatola e attaccato al Galaxy. Senza nessuna modifica, nulla, nulla. Ma ti sto dicendo, questa radio è fenomenale. Sono stati fatti pochi accorgimenti, pochi, però è andata sempre bene. Come il mio è lo stesso, tolto dalla scatola e piazzato qua. È nuovo nuovo il mio, non è stato né modificato niente, è tutto originale. Sì, perché ho visto che andava bene, ne avevo un altro che avevo comprato dal Gigi Vulcano, MB più 5, tutto modificato, però fischiava e innescava. Allora mi sono rotto le palle, l'avevo dato, me lo sono comprato nuovo, l'ho attaccato ed è perfetto, non fa nessun disturbo e ti dico che esce bene. I toni ce li ho tutti chiusi e il microfono è a metà. Buono, ottima radio e ottimo segnale. Ovvero, segnale già, si tacco, si abbassa, mi abbassa. Guarda. Così è staccato. E così è attaccato. Questa è una differenza. Ma anche del radio, Del radio cali tantissimo. Il segnale Santiago 6, cioè va da 6 a 9 più 10, ma la radio quando attacchi aumenta, è una cosa impressionante. Perché l'accordo giusto è tutto calcolato, capito? C'è una resistenza in mezzo, i collegamenti sono diretti, non vi sono cavi longhi, fini, capito? Non ce n'è PL, è tutto saldato diretto ai connettori d'antenna, tutto saldato, non ve ne è dei connettori volanti e via, capito? Quindi poca perdita e molto guadagno. T'ho detto che sta dando girando 100 watt pieni, addirittura con la T250, perché serve, ho fatto quel collegamento a 4, lo sto usando solo come strumento e commutatore, rosmetro, wattmetro e commutatore, senza usarlo come correttore perché ho tolto il carretto, e sta dando 100 watt riportanti modulati addirittura a 110. Claudio! Oh yeah! Beh, questo è nel MVP5, nel Galaxy. Va bene, mi stai arrivando bene. Non so se è uguale alla mia la modulazione, se c'è differenza dalla mia a quella di Franco Massimiliano. La radio la tua molto più forte. Tu adesso fragganciato, sì. No, sono sganciato. E va bene, la timbrica di modulazione, la mia è tutta diversa dalla sua. No, la radio è buona. Giustamente quando la gancia lineare te la porta un po' più su la modulazione, capito? Comunque per essere così solo radio stai andando benissimo, fra. Ehi capo, no, mi agganciato è così. E non so se la modulazione è aumentato. Non più di tanto, no. Non ti credo che aumenta molto, Ehi capo. Ehi vabbè. Guardate che gli aumentano cose, me lo aumenta la potenza. Poi funziona la potenza. E ciò come ha detto Claudio, i toni a zero, e la radio, e la mitigation del microfono, ce l'ho al massimo. Va bene, è buona, è ottima. Giovanni, come l'ascolti tu? Prima lo sentivo molto, ma molto più... il segnale era molto più forte, a fondo scala arrivava. Comunque lo ascolto sempre molto bene, anche adesso. Sì, vabbè. Io sì, aspetta. La radio è tutta diversa. Quella lì esce ancora anche con più potenza. Ed è per quello, Giova. Ma qual è la mia? La mia la posso sganciare, esce con i watt normali. Vediamo un pochino che mi ha chiamato Carlo. Prova Carlo se ti sente Massimiliano. No, non lo sento qua. Sentitola Massimiliano, sentitola. No, negativo. Non arrivi, no, Carlo, non arrivi, qua sei 9. Dove c'è il serbatoio c'è la secca, sì. Qua sei 9. Arrivavi più forte dal Bunari. Kappa, va bene. Comunque, fra, già arrivi bene. Qua aumenti, vai da 5 a 9. Da 5 a 9 vai. 8 e mezzo, dai, modulati 9. Diciamo da 5 a 8 e mezzo. E va benissimo, la radio è perfetta, va bene. Ehi, capo, cosa vuoi di più? Già va bene. A voglia, come dice qualcuno, a voglia che va bene. Avanti, Giovanna. Ciclista non lo sento, neanche io non lo sento, Il ciclista si è perso, dove sei Carlo? Ma guarda Massimiliano, ti può sentire se fai via Milano in alto, forse ti sente, ma così lì in mezzo alle curve non ti sente, perché ti sto già perdendo io, figurati. Avanti Massimiliano. No, ma poi che potenza ha quella radio? 5 watt, ci arriva. Non lo so che potenza ha, un portabile. Quel portabile ribaltabile con antenna di plastica, quanti watt c'ha? 4 watt. 4 watt sono pochi. Attaccali un linearetto e lea la gardena. E usi c'è in ciliegia? La dinamo così alimentare un lineare. Attacca la Ruzzi, attacca la lamparina, quando bidaneggi c'ha più pedali e più watti ti dà. Lui, forse l'ho sentito adesso. Prova. Insisti Carlo, insisti. Insistisci. Se attacca la lineare io esce un buco. Forse la bicicletta anda. Ragosa l'attacca, vista dinamo, vista attacca di Rudy, va a far funzionare la lampadina. Usci più pedale e più watti dati. Ciao Natali. Ciao qua. Ma bagnato è Natali? Cazzo, le 8:20 sono. Io vi saluto tutti e buon proseguimento. Ciao, alle prossime. Vabbè, fiaco di magna inteso, ciao Giovanni, buona carica e buon tutto. Ciao Giovanni, buona carica e buon tutto, siamo passati col 430, speriamo che mi sentite. Sì, allora siamo più giusti se non intendo a te. Ciao Giovanni, buona cena. Grazie a tutti, ciao. Ciao, ciao Giovanni. Mi senti Massimiliano con questa, sì? Se devo rispondere? No, no, volevo sapere se era uguale a Galaxia Tornello. Non si allontana molto, mi guai che quel Galaxia sia bene. Di questo sono contento, va bene. Va bene, infatti sarà uguale il coso, la, come si chiama, la, il segnale, più o meno siamo lì. Guarda, io ti sento 9:10 pieno pieno, cla. Vabbè, la radio già si è bella, il tuo gatto, ma chi c'ha poi già per la differenza? Auguro per la differenza. Sì, questo PEP, allora, sempre con la T250, potenza, e la matta di nevare, 50 watt di portante e 100 modulati. Ok, dai. Ragazzi, io vi lascio, sono chiamo a mangiare. Ci sentiamo le prossimine. Ciao Claudio, Bulldozer e Natalino, e anche a Carlo se mi sente. Ci sentiamo tutte le prossime, buona carica quando la fate, buon tutto. Ciao ciao, correti per me. Ciao Franco, alle prossime, dai. Allora, te sul fianco di mangiarmi. Ciao Fra, buona serata e buona carichetta, dai qua. Ciao Fra, un abbraccio, buona carica, buon tutto, le prossimine e ci sentiamo KK. E cambio basso. Via. Questa è così. Questo sta andando, infatti sono questi, 50 l'importante, lo posso anche abbassare, ma la camana è attesa, e 100 modulati. Ottimo, ottimo, va bene, di lusso. Il MKG ce l'ho a 2, 2 e mezzo, tra il 2 e il 3, e niente, e va bene così. Ma sai bello di questa, che io non sapevo, ti giuro non sapevo, c'è lo stesso connettore dietro per attaccare la T250, quindi puoi fare linea col 430 con la T250, linea col 140, linea col 680. Va bene, buono, te lo prendo un altro. No, voglio dire già, se voglio fare linea col 140 faccio linea 140, però la T250 va bene anche come correttore automatico, essendo superiore al 430 preferirei fare linea con quello, inserire la correttore automatico, capito? Perché è come radio superiore, come dice il trasmettitore del 140, e quindi è meglio che hai la correttore automatico. Certo, e vabbè, se no te lo metti in mezzo la T250 tra il 43 e il 14 e puoi fare linea o con uno o con l'altro. Là, sicuramente si è facciato qualche cosa di freddo sotto, che mi sta chiamando Daniela, se è successo qualcosa perché ho sentito casino. Ci sentiamo dopo, se no ritenetevi salutati, vi mollo un attimo. Ehi, beh, anch'io adesso inizio ad andare là a farmi un aperitivo, sono già le 8:30. Ci sentiamo ragazzi, baci e abbracci a tutti, Franco, Giovanni, Natalino, Massimiliano, Carlo se mi ascolti ancora e tutti, un saluto a tutti, per me è QRT, ciao. Ciao Claudio, ciao Massimiliano, alle prossime. Carlo, mi senti? Ciao Natalino, dai, rimane tutto acceso qua, se ci siete a dopo, ciao. Ciao. Non va. Boh, altro, cosa vuoi che ti dica? Oh, so. lo so pure te, non lo so chi è per così come per lì, non so prima. Sicuramente. Ma si sta fatto che di fumo, non lo so, boh. Questo lo dovresti vedere più. Capito? Bisogna provare come ho detto io, magari è smumorizzato, capito? Può essere. E via. E via. Parola, mi sono cucchiato un poco. C'è caldo, cazzo. Aspetta un attimo, altro che devo levarmi la roba, devo sentire tu, un attimo. E via. Ok. Cercandomi, forza valetta. E infatti io già sono in mutande, no, che un caso la morì, e no, che sopra. La cosa me lo so protetto, già lo sai. E non ho problema con l'ubilizzò, ma di mamma. Ah! Su di Maria mi sa di minoretto, mi sa furare un coso, non è... Le fragole ne escono fuori. Lo farà Grodio. E i fragoloni ne escono fuori. La borsa. Guarda, la borsa d'acqua calda. Ragazza, fa toccato, se mai fa più caldo. Adesso mi sento. Periodo caldo è questo. Inizia il periodo caldo. E vabbè. Che ci vuoi va? Ci andiamo al mare domenica, però andiamo, adesso vediamo, questo è, verso le 11, così, no, presto no, ancora c'è freddo per andare presto, comunque adesso la temperatura è calata, se tu vai fuori, c'è freddo, capito, c'è freschito, freddo no, freschito, là. Mi sono messo la felpa poco fa, dici no, ma mi sta accompagnando Marina, ma che ne so, è presto ancora, è presto, mamma mia, questo, senza gli euro. Piazzarola, ma domani a Costantino passate? Sì, faremo un salto, comunque io sto virtual di Dio, l'ho caricato, so che lo devo imparare bene, non c'ho tempo, non ti vostra, il prossimo anno mi metto a vedere un po'. Ho notato una cosa, che puoi mettere musica, sia da una parte che dall'altra. C'ha tipo qualcosa da DJ, ma poi puoi fare anche altre cose, ho visto. Allora fa gli applausi, poi fa tante cose, fa. Adesso lo apro, aspetta, vediamo un po'. Perché mi ha dato una schermata l'altro giorno. Poi ieri l'ho aperto stamattina, boh, se non mi ricordo. Mi ha dato una schermata, ecco, vedi. Benvenuti su Virtual DJ. E si già, ah no, ecco qua, vedi. Ah, ma non anda. Ah, non va, ah, eccolo. E vai andare, senti, aspetta. Senti. No, no. Quasi, si dovrebbero usare con un brano, poi l'altro, poi fargli un paio, con chi bisogna saperlo massicarmi. Ma non lo stirare bene, tu, fu che carino, dai. Non so se è a pagamento questo coso, buh. Ah, me ne dico, non ne so meno di te. Io già so tutto quanto, fa anche, mi pare che tutta quella roba, con qualcosa può anche produrre lui, fare un sacco di cose. Però non ho capito, ma che cazzo si cambiano? Vabbè, mi cambia qua. Ah, ecco. Aspetta, vado. Ah, c'è la questa qua. Poi c'è la velocità. Le cuffie, ecco. Questo non ci va regolare però. Ah, ecco. Alti, medi, bassi. Sì. Vabbè, dai, stabili in culo. Cioè, non è difficile. Ma so che fa anche tante cose. Capito? Anche un'altra cosa che non, che non so. Ma tu, c'è YouTube, lui ti aiuta. Ah, il problema di YouTube, sai cos'è? Che non ti dicono tutto. Perché sono una massa di gelosi, falsone, che non ve ne beh a dire. Boh, se una cosa a pagamento non ti dicono tutto, no. Comunque dai, non è difficile. La massa di garoni, chi ti dice tutto sai che è una persona onesta, che veramente che conosci, ti dice guarda devi fare così, così, così. Allora, c'è la gente che ti vuole solo bene, ti dice la verità. Dice, ma gli altri in verità, oh. Ehi, vabbè, tanto. Ma se vuoi ti dico, casino. Allora, vediamo un po'. Vediamo se alla musica. Vediamo. Voglio fare una cosa, allora. Bob Marley. Gips. Eccoli qua, vediamo. Esci a vedere. Vediamo. Ah, ecco. Sì, ho capito come funziona. Ho capito. Praticamente ne fai partire prima una, poi ci clicchi sopra un'altra e parte anche l'altro. Tu lo blocchi, quando vedi che l'altra sta finendo, cosa fai? Prendi e abbassi l'audio dell'altro, oppure la stoppi e fai partire l'altra. Quello già la so, già. Dove, dopo? Quello già lo so, come bisogna fare. Non è un problema. Si possono fare anche altre cose. Sì, mi piace. Bello, bello. Carino. Quello volendo magari, quello puoi usare, secondo me non devi fare karaoke, devi mettere solo musica. Quello va bene, ti diverti. Ho visto che Ilario Green ne ha un altro, che è molto bello quello di Ilario, bello, sì. Poi puoi mixare anche, capito, puoi bloccare il disco. Però lui c'ha anche i brani in MP3, ci carica lì, mi ha fatto cantare il bassone. Non so cosa cazzo tu sta combinando, Vico. Non credo che un virtual DJ possa mettere basi di karaoke, ma lì ce l'hanno. La musica che la mette, l'ho visto io, molti brani c'è scritto virtual DJ, e non solo, lui se proprio quella musica della Torres che aveva fatto lui, da Alba che l'ha messa, il cazzo gli ha rotto il ballo, gli ha rotto il grammone, generale l'ha fatta con quello, l'ha fatta. Già ci sa muovere, già, maledetto. Sì, Antu, cioè, se uno si muove tutti i dì, non mai sa muovere. Scusa. Io questo non so come accusa, mi sono messo, ho imparato, qualcosa l'ho imparata, capito? Non so quando usare per niente. E sto capendo più o meno come funziona il programma. C'è anche un motivo, si chiama virtual. Sicuramente, quel cavolo di cose, sicuramente. È tutta, cioè, ti fai brani, è tutto virtuale, capisci? Ma si chiama virtual DJ, è virtuale, no? Ti fate lo che vuoi tu, ti fate. Hola, hola. Va. Girami il pugnone. Di nascere la matta, andendi. Che appariglio? Ogni tanto me lo fa. Si blocca? Se guardi lo smitter fa in bottenza. Oh, what's up? Ehi, altre se cose, radio vecchie sono. Vabbè. Gli danno da chiracchicina e non è un pareggio baravati il baracchino. Già rimane lo che vè. Quando c'ho i soldi me lo prendo qualcheduno di chiracchi di brici. Non me l'ha fatto un cazzo a me lo baracchino, non mi sento a travagliare io. Sbigliate con tuo papà. Beh, io ne ho uno, due, tre baracchini. Cosa me ne ha furti? Ciappa, adesso quando me lo compareggio. No, così. Non penso che prenderò roba. Quando faccio ridina, adesso prima devo risolvere dei problemi, devo risolvere. Poi dopo. Però dopo piglio il baracchino. Certo. Ma sai che sono andato a scoprire che con le casse che ho io, la stessa azienda, la DB Technologics, praticamente è una ditta che la stessa compagnia dell'RCF. Anche io? Mamma mia, come sto? Stanco, quando fai un cazzo con la pizza. Vabbè. L'RCF la conosci? Sì. È la vita che fa amplificazione. E perché si è detto cazzo c'è cosa suonato lo pure? Perché tu vai a scoprire che la quasi nessuno che uno è di DB Technologies e l'altro è di RCF e basta. Qualche cosa nel prezzo cambia, ma mica tanto, ed è costa di maledizione. Mi pare che il babbo l'abbia pagato 800 euro. Quanto? Mi pare che all'epoca l'abbia pagato quasi 800 euro. Cazzo, ma quella via l'angelo, ma sai come cos'è, RCF? Oppure l'altra che marca è? Quelle che ho io sono le DB Technologics. Le cromo, vabbè, c'ho io. Le cromo 12. Le BFT, così si chiama? No. Si chiamano DB. DB, scrivi DB. Sì, come si chiamano le BFT, le altre, come si chiamano le casse? Quelle che ho io. Ah, sono le RCF, le altre come si chiamano, BFT? DB. Cazzo DB, Antu, le B, là, che c'ha tre lettere, come si chiamano? FBT. FBT. Come c'erano le FBT, quelle che c'è Angelo, ma zuccava, ma le casse grandi, mi... Ma... Diciamo che quelle da palco, so che è un impianto fuori del capo. FBT sono buone, FBT sono buone, ragazzi. Cavolo che sono buone, ma zuccava un bel. Sono magari anni 2-3.000 fatto l'una. C'è un impianto, guarda, allucinante. Ma è stato un patrimonio per quell'impianto. E tu pensa lui lavora al coso, la mondezza, là. Un prato ecologico. Ma quella roba lì però si tratta ma che si fa a serata. Lo so. No, vabbè, non è più adesso, Io ma sto parlando un cazzo di 20-30 anni fa. Papà. Quelle caricate a tromba erano. Sembra che pompava, ragazzo, di curia ragazzo. Che cosa? Ora che chi si sta di vermi? O lui? Che si cazzo di. Cioè, se vuoi ricomparare subito pure mi la roba. Che ci sta di vermi a vero me. Lo metto in dubbio anzo. Lo metto in dubbio. Ci sono casse e casse. Se tu vai su internet e scrivi ci sono delle casse, non costa manco molto, c'è scritto 2000 watt, ma se vuoi sono cagati. Ma magari chi sta vendendo al mercatino del corno, ma lascia perdere, la roba buona non è quella roba così, la metti una casa e anda. Roba buona non è quella, no? Le cose buone se le puoi pagare le paghi. È come un paio di scarpe, cioè le scarpe da 50 euro e le scarpe da 200 euro. Cose buone sono, tanto di marca, trovo di più. E così, guarda, ho preso un paio di scarpe, gli ho pagato 80 euro buttati, io 80 euro li ho buttate, preso e buttate nella mondezza così. Perché le scarpe sono tutte aperte. Molto meno e andano sempre e alla fine è così e usci meno spendi e meno hai. Quindi tu hai speso un po' di soldi e è un ottimo impianto. Ma già lo credo, via cazzo, a me non mi piace a mondezza, mi piace roba buona. Certo, te lo sto dicendo, più spendi e più hai, meno spendi e meno hai. Come negli apparecchi, le antenne del baracchino lo stesso, ma non spendi meno hai, è così, tutte le cose, come la macchina, ma non spendi meno hai, televisori, tutto, telefoni, è così, purtroppo è così, riesci a vedere allora, Maria, eccola, via gatta, un casino. Casi davvero, si è appagato. Ho entrato un show. Ma ho già tante sere che entro, cazzo, ma non posso ascoltare nessuno perché ce l'ho rotto l'apparecchio. Ho capito, tu. Là, ce l'ho rotto l'apparecchio, quindi non so se sta entrando qualcuno durante il giorno. Ah, vabbè, c'è il 3009. L'87, non a giocare ad attazzino, c'ho cose da fare questo periodo poi. Vabbè, chiedo poi a rimanere senza. Ma non lo sto portando apposta, perché ho cose da fare. E speriamo che sia travaglio, invece di... Quando il baracchino può anche aspettare, non c'è problema. Vabbè, senza dubbio. Baracchino aspetta, come? Ciao. Prima devo fare quel piacere. Allora, stiamo pensando di lavorare. Lavorare perché abbiamo bisogno di lavorare, perché per metterci un po' a posto. Ehi, che non abbiamo messo a posto di grossi, io voglio tempo, pazienza, soldi soprattutto, soldi. Ogni a dire sempre il bagaglio di roba, e se non travagli non il bagaglio fai posta. Molti pensano, molti che lavorano nelle aziende, pensano che tutto sia dovuto, che tutti sono ricchi. Purtroppo no, alcuni dei casi non funziona così. Lo so, tu. Piano piano, testi di giove. Nella vita ci vuole pazienza. Cabba, e purtroppo adesso bisogna anche ragionare in un'altra maniera, no? C'è chi si chiama un bel travaglio, certo se lo devono tenere stretto che hanno un bel lavoro, perché è un casino, la dipendente non è chi, non ne ha fottuta, vabbè, se si fa del travaglio in più si lamenta, però bisogna anche supportare un po' di là, ben di dire. Cazzo, se ti chiede mezz'ora in più, fagliela, cosa stai a rompere le palle? Invece un po' di gente, ah, wow, quello è così e quello è quando non ti paga, non ti paga, cioè lo stipendio te lo sta dando, basta. Se poi ci sono da fare dieci, una mezz'oretta in più, non muore nessuno a me. Cioè, è tutto di guadagnato, anzi, lui cioè, ti va anche sì, ma logico, non te ne devi mai approfittare. Mai, io parlo, mai uno se ne deve approfittare. Però se uno fa 10 minuti in più, non muore, non esce nell'asino, non facciamo vedere, sta sempre protestando. Ma lavora tranquillo, portati i soldi a casa, vai. Perché poi tu fai buco qua, fai buco là, rompi le palle, e non devo più nessuno a travagliare. Lo so. È solo che poi bisogna vedere se tu gli fai ora in più e poi, insomma. Guarda, a me è successo tanti anni fa, io l'ho fatto. Il magazziniere è entrato con le borse di lavoro. Sono entrato magazziniere un anno alla Nordingross e facevo dalle 8:30 all'1:30 mi pare, a mezzogiorno e mezzo, non mi ricordo, 4 ore facevo comunque part time. Il padrone mi ha proposto se facevo ore in più non pagate, che avevo la possibilità di entrare fisso lì, fuori dalle borse di lavoro però. E io ho rifiutato. C'è qualcuno che ha fatto un in più e se la piglia da come devo sapere. Cosa hai detto? Che qualcuno non l'ha fatto? No, ho detto qualcuno l'ha fatto, ma non è entrato. Allora, su 10 mi stanno 10, 8 se non mi ricordo. Sai, 2 sono entrati per incursi. Vabbè, però è sempre. Uno se ti comporti bene c'è sempre il coso che. Io penso che uno dice, per esempio Luca lì si è comportato bene e basta, cioè c'è sempre un qualcosa di buono, invece se tu fai lumacco e cose, la gente poi ti giudica, può succedere che purtroppo questa erogna, però la pipina è sempre a testa alta, te ne devi andare. Lo so. È capitato di fare qualche mezz'ora in più in cantiere, se quattro ore in più non pagato, e pago cosa da voi, perché sono curati. Lo so, troppo così, e poi c'è qualcuno che te le dà, qualcuno che non te le dà, e è sempre un casino, però molte volte no, devi sempre pensare che ti devi buttare di là a casa, non vedo dai fanno. E cazzo, quando c'è mamma e papà è un conto, quando sei da solo da voi, cazzo quella mezz'ora gliela devi fare per forza, se vuoi mangiare fine settimana, se no te la pigli in culo. Lo so, Anto, tu le fai ore in più. E sei pagato in più. Già sono pagato. Non sono pagato in più, però devo andare perché non c'è nessuno. Non è vero, sono dove vai non te ne danno in più. Se glielo vuoi fare bene, che se non glielo fai si offendono, capito? E magari a preferenza te ti mette un po' da parte e ne cerca un altro e dice che magari questo qua è più, si dice, più volenteroso, adesso andare a fare un culo e quindi piglia un altro, capito come ti funziona? Volenteroso lì non penso che non esista in quel posto lì, e che tu molte volte non è solo il volenteroso, e quando conosci il personaggio che fuggi subito pure, capito? Il problema è quello, capisci cosa ti voglio dire? Che molte volte quando gli girano le balle stravaganti, capito? però bisogna, io la lascio perdere, boh. Lo so. In tutti i lavori comunque ti chiedo se fa qualche ora in più. Tu pensa che a me l'hanno detto se le facevo. A me mi aveva l'assegno a casa, capito? Devo fare quelle ore lì e basta. Se facevo ore in più, perché insomma per ingrassare il culo a lui. Poi non ti faccio manco usare il trasporto elettrico. Devo usare quello a mano. Ti devi dire il medaglia di leva, ma esci da culo. Non so, magari devi fare il corso per quello, no? Ma sto parlando nel, guarda, 2000, forse nel 2000, no? Forse avevo poco battente ancora, forse era nel 98-97. Purtroppo lui è diventando un casino, diventando. Prima, vabbè, in quegli anni veniva, entrava vicino lui, entrava in un lascio, domandava in affanculo. Adesso non è più così, no, la storia. Prima di far cazzare dicevi pensare 10 volte. Lo so. Volevo vedere cazzo la... altro c'è niente che lo fa, Viene pagato. Fa un'ora in più gliela viene pagata. A mezz'ora in più gliela viene pagata, capito? Meno non gliela viene pagata. E così, perché ingrassare il culo a lui, capito? A te li bodati quello in più, la famiglia fa bisogno, e vuoi un chilo di pane per dire, no? Oppure mezzo chilo di pane, un pacco di pasta, un metro di formaggio, e così, ma non tutti che te li danno. Oh, c'erano, allora, c'erano i titolari che pagavano, con la busta paga lo lasciavano da parte. E poi ti dia passare in ufficio, cioè, e molti sganciavano anche le 100.000 lire, ce n'erano molto gentile. Dove aveva lavorato Babbo all'Intercarcering Italia, la signora, lui stava anche, faceva ore in più, faceva lavorando. Poi passava in ufficio, tatatame, capito? Vabbè, certo. Ma tanto sono molti mangia merda, molti, tanti. Lo so, cioè uno sganciava di là. Cosa fai? No, non fai quell'ora in più, e come ce la fai? No, è un bel invece, no, a me mi ha fatto un cazzo minando, bomba, che magari arrivavano in contagio della roba tardi. Come se lo facevi? Avevi figlioli minori, come che se ce lo facevi? Chi ti pagava a me? Puoi scaricare, pagava a me. Beh, certo. Te devi tagliare la parte tanto, vabbè, tanto te la futti nuda. No, non ne guardo. Cioè, praticamente stava vincendo 1-0 l'Inter. Poi in pochi secondi hanno fatto 2 gol loro, 2-1. Poi abbiamo fatto 2 rigori, ma i 2 rigori c'erano. Però perché sono fallosi, ho capito. Tanto non c'erano. Ma anche uno non c'era, va bene, ok, l'altro c'era. Comunque si avrebbe perso comunque. Quanto ne imbroglio, Avete non neanche visto cos'era, però. Molte volte problemi su problemi. Agiscono male molte volte. Vabbè, tanto almeno mai tenuto in busciacca, Male manca a me. Alla fine, io sono tifoso dell'Inter e boh, non è che... niente che offende, vabbè. Chi è che ha offeso? No, lo dico, la gente che offende. Io non sto offendendo la testa, sto offendendo la squadra. Ah, ma quello c'è in tutti gli sport. Che ti fanno a pezzi. Si offende, e cosa? Purtroppo vabbè, pure c'è, cioè, molte volte hanno preso anche il Cagliari e mi non preoccupa tutti me. Vabbè, il Cagliari domenica c'è, cioè, Inter Cagliari, se perde se ne va in Serie B. E su come sono messi male, ci vogliono soldi per le squadre, ci vogliono soldi, giocatori buoni. Chi le vecchie non vale un euro, cazzo. Sembra che ce le vele. Lo so. Ogni cosa ci vuole soldi, soldi, soldi. La squadra sono così. E diciamo che la Juventus, vabbè, era un po' giù di cosa, di classifica, e salita un bel. Sicuramente si prenderà il quarto posto, sicuramente, abbastanza sicuramente. È che diciamo che si è calmata un bel, diciamo la fitta. Calma, devo soltanto. Purtroppo è così. Non sapevo che se farà di così in basso lo farà di la Juventus. È un bel però. Mi sa tutto quel giorno, se vuoi andare vai tranquillo. Tanto anch'io mi c'è stessa la notizia, non so, mi sa c'è qualche programma, me lo guardo. Cappa, dai. La verità, sono molto stanco stasera, abbiamo lavorato, La verità. Ora metti il gocco. Il bicchiere e via. Ciao, buonanotte Lucia, sentiamo. Ehi, ciao a tu, ciao a Cassara, buonanotte a voi, ciao ciao. Ciao ciao, buonanotte. Ah, se non sta disturbando, un po' che è strano. Voglio comprare che grazie di grosso. Lui, quando prendo umidità che i disturbi sono maggiori. Fidati di quello che sto dicendo. No, non è così, no. Anche ieri disturbavo e poi l'umidità non ce n'era, che si è fatto un po' di caldo. E non è che non disturba già più, va. Aspetta, vediamo. Non so, sta disturbato. Vediamo se attacco, vedete. No, va. No, sta disturbando. Non sta disturbando? No, vediamo con la RAI, aspetta. Con la RAI è sicuro. Vediamo. No, non mi caccia, me lo disturba. Tutti dimmi chi ci vede questo. Perché sta scaldando parecchio, capito? Con la RAI sì, me la disturba. L'importante sono queste specie di righe, non righe, come se il televisore non prendesse segnale, capito? Poi sparisce. Ho capito. Hola.